Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità. Se le panchine sono piene di gente che sta male. Io ho un concetto etico di giornalismo. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili. Pretende il funzionamento dei servizi sociali, sollecita la costante attuazione della giustizia e impone ai politici il buon governo. Se un giornale non è capace di questo, si fa carico di vite umane. Un giornalista incapace, per vigliaccheria o per calcolo, della verità si porta sulla coscienza tutti i dolori che avrebbe potuto evitare, le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, le violenze che non è stato capace di combattere. In questa frase è racchiuso tutto il pensiero di Pippo Fava. Pippo Fava era un giornalista che ha lavorato per 22 anni all'Espresso Sera come capocronista. Poi ha lavorato dal 1980 all'82 al Giornale del Sud come direttore. Alla fine del 1982 ha fondato I Siciliani e ne è diventato il direttore. Ha fondato questo giornale con alcuni ragazzi giovani che avevano già lavorato con lui al Giornale del Sud. E questo giornale è stato fondato con lo spirito di avere un occhio molto attento al territorio catanese e a quello siciliano, facendo i nomi e denunciando gli imprenditori collusi con la mafia e i potenti. In questi giorni si discute molto di trattativa Stato-mafia. Sotto questo punto di vista Pippo Fava era stato lungimirante, perché nell'ultima intervista che ha rilasciato ad Enzo Biagi, proprio poco prima di essere ammazzato, disse che la società era cambiata e che i mafiosi non erano più quelli che ammazzavano, perché quelli erano gli esecutori. Disse che i mafiosi stavano in Parlamento, alcuni erano ministri, alcuni erano banchieri e stavano ai vertici della nazione. Qualche giorno prima di essere ucciso, Pippo Fava ebbe un avvertimento che gli fece capire che sarebbe stato ammazzato di lì a poco, perché gli recapitarono a casa un pacco di ricotta di champagne. Questo nel linguaggio mafioso significa: ti facciamo la festa e poi brindiamo e festeggiamo la tua uccisione. Il 5 gennaio del 1984 Pippo Fava è stato raggiunto da 5 colpi di pistola alla testa ed è stato ucciso. Dopo la sua morte i siciliani hanno continuato a uscire, però dopo qualche anno non sono più riusciti a uscire perché non avevano più fondi. Adesso, dopo 30 anni, sulla scia del ricordo di Pippo Fava e del giornalismo che aveva insegnato, è nata la rete dei siciliani giovani. Adesso vi facciamo sentire l'intervista a Riccardo Orioles, compagno di Pippo Fava. Ma prima ascoltiamo Down to the River to Pray di Alison Krauss. To pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, Oggi c'è stata una conferenza per il ciclo di conferenze che si tiene per l'anniversario di 1025, giornale online, che appunto fa l'anniversario di un anno. E siamo qui con Riccardo Rioles, direttore dei Siciliani Giovani, che è legato a 1025 perché, come dicevi tu, 1025 non è altro che una parte, un filo della rete che dovrebbe tessere il giornalismo di informazione. I siciliani in realtà è l'arcipelago che riunisce tutte queste isole, no? Ecco, quindi no, i siciliani da solo non esiste, esiste con tanti 10 e 25. Ecco, la mia domanda è proprio su questo, cioè il giornalismo in Italia, il giornalismo fra i giovani, e cos'è il giornalismo di informazione per te? Nessuno sa cos'è il giornalismo oggi. Allora, per esempio, ai miei tempi era una cosa per cui tu facevi un lavoro regolare, ogni fine mese ti pagavano, questo non c'è più, no? Però le notizie che girano oggi sono molto più numerose di quelle che giravano 30-40 anni fa, no? I soggetti che fanno il giornalismo oggi sono moltissimi, molto articolati, molto diversi tra di loro. È presto ancora per fare la fotografia finale, però tieni conto che la parola giornalismo ha cambiato di significato ogni 80-100 anni. Voglio dire, il giornalista del 1970 è una cosa totalmente differente rispetto a quella dell'Ottocento. Amici, a quanto pare siamo in un momento di trasformazione in cui, che sarà completa tra non prima di 4-5 anni, al termine della quale la parola giornalismo vorrà dire qualcosa di completamente differente. No, può anche darsi che in questo momento la giornalista sia tu più di me, non lo sappiamo, capisci? Però voglio dire, c'è stato un momento in cui sono succede queste cose strane, queste trasformazioni, no? L'importante è che chiunque sia il giornalista e qualunque sia la forma del giornalismo, resti fermo il nucleo del giornalismo, che è l'impegno col lettore, no? Cioè il giornalista non è uno qualunque, il giornalista è uno che mette la propria dignità, la propria vita, no? Sul fatto di non imbrogliare il lettore, molto banalmente, così come il medico cerca di curarlo, il calzolaio cerca di fargli le scarpe, il muratore cerca di fargli la casa, no? Quindi sono delle cose molto antiche e che cambiano in continuazione le tecniche, no? Ecco, che però hanno sempre al centro quel preciso impegno col lettore. Tu come hai iniziato a fare il giornalista? Cosa ti ha spinto? Ah, è da ridere, io mi devo mettere la testa a posto, perché vedi, io sono 68. 68 non è uno che è nato nel 68, è uno che andava a scuola nel 68, quindi io per quasi 10 anni sono in tutti i casini che c'erano in Italia, dove c'era un'occupazione, c'era. A un certo punto mi sono accorto che cominciavo a essere vecchio, dico qua bisogna mettersi la testa a posto, facciamo una vita tranquilla, e quindi ho fatto un concorso dell'ordine dei giornalisti e l'ho vinto, no? E dopodiché ho incontrato il mio direttore Pippo Fava, no? Per cui la tranquillità purtroppo non c'è stata. I Siciliani è un giornale che ha avuto tante evoluzioni nel tempo. Questa nuova trasformazione, per così dire, informatizzata, che permette appunto quella libertà di cui parlavi prima, non è ancora totalmente sviluppata, è come una farfalla che non ha ancora concluso il bozzolo. Abbiamo un problema tecnico, no, che è istituzionale, cioè non c'è una redazione di Siciliani, non ci può essere, perché adesso Modica è un posto molto vicino a Milano, no, da un punto di vista giornalistico, però non lo è fisicamente. Quindi il peso del giornale, l'organizzazione del giornale gravita sulla rete, questo è un primo esempio. Il secondo aspetto è che noi stiamo vedendo un giornale con pochi professionisti e molti dilettanti, no? Questo da un lato è un vantaggio, da un altro però è faticoso. D'altra parte è meglio dilettanti che giornalisti seduti, non so se rendo l'idea. Il nostro giornale è una scommessa, noi non dobbiamo mai dimenticare, cosa che i giornalisti dimenticano, che il giornale, ma il giornale, il sito, qualunque cosa, no? Alla fine va a finire in mano al nostro re, che è il lettore, non so se rendo l'idea. Quindi se io non penso a questo, parlo da solo, come fa la maggior parte dei giornali ufficiali. Ecco, questo è uno dei concetti che dobbiamo tramandare, e non è tanto facile, perché in generale chi scrive, chi fa televisione, tende a essere autoreferenziale, non so se mi spiego, mentre invece con le tecnologie abbiamo questa grandissima occasione di parlare veramente con la gente, perché se io scrivo una cosa su un giornale, no, il lettore al massimo lo può buttare via, ma se la scrivo su internet lui mi può rispondere e ne può sapere anche più di me, e quindi il prossimo passaggio sarà un passaggio ancora più ricco e così via. Internet è la grande occasione di questo pianeta. Poi l'ultima cosa, il giornalismo di cui parli tu è un giornalismo che è particolarmente radicato sul territorio, cioè è un giornalismo che è attento a ciò che lo circonda. Questa rete dovrebbe quindi essere, cioè, una rete coordinata tra le persone, che però parli ognuno del proprio territorio. No, perché tu, se vuoi, puoi parlare anche di New York, se te la senti, però devi tenere presente che se ne parli in modo noioso poi il lettore ti picchia. Non so rendere, perché noi in internet siamo proprio nelle mani del lettore, non so rendere, ognuno parla di quello che vuole. No, io penso che in questo momento per me l'argomento più interessante che c'è è questa stanza. Dopo questa stanza la strada che gli sta intorno, non so, se io sono un vero giornalista, se ho letto i grandi classici, ho letto Hugo, ho letto Hemingway, ho letto Giuseppe Favo, ho letto Tolstoj, no, e sono curioso, allegro, mi piace vivere, no, allora esco da questa strada e faccio subito il grande giornalismo, semplicemente parlando con una singola persona, che ognuno di noi ha delle storie straordinariamente belle, voglio dire, se poi per caso passa Obama, potesse non sia lui il personaggio più importante oggi nel mondo dell'internet, no? Però ci vuole questo, lo sai, tutto questo lo devo fare gratis, perché non ho più un padrone che mi paga per farlo, per far finta di farlo. Attenzione, io non ce l'ho perché non lo voglio, no? Ma se io lavorassi a Repubblica, ad esempio al Corriere, probabilmente non mi pagherebbero, ormai anche questi giornali lavorano col precariato, come sappiamo, quindi è un altro mondo, non so se rendo l'idea. Dici, chi lo coordina? E si coordina da sé. Io in questo momento sto tenendo un palinsesto di un giornale di 96 pagine, ma in realtà la nostra rete è molto più ricca di quelle 96 pagine, non so da rendere, questo non lo può coordinare nessuno, ecco, perché fisiologicamente è impossibile. Voglio dire questo, se tu sei in un monastero che devi scrivere una Bibbia, per esempio, no? Allora l'abate dice tu scrivi questo, tu scrivi quello, tu, molto bene. Però se hanno inventato la stampa, per cui tutto diventa molto più bello, il lavoro diventa più complicato. Se poi arriva Lutero e inventa il protestantesimo, chi è che coordina più a qualcuno? Il casino è talmente generale, no? Che le cose ovviamente sono troppe e vanno troppo in fretta, non so da rendere. Io non sono in grado di coordinare Stampo Antimafioso, oppure Esther di Stampo Antimafioso, oppure il ragazzo di Esther di Stampo Antimafioso, oppure il datore di lavoro del ragazzo di Esther di Stampo Antimafioso. Noi stiamo cercando di far entrare in questo circo equestre tutte queste cose, non solamente quelle che ufficialmente ci devono entrare, non so se rendo l'idea. Ecco, e in questo è stata completamente aperta, voglio dire, io il mio lavoro in questi 2 anni è quello di tenere insieme le persone, cioè di telefonare a Tizio, pronto, ciao Martina, hai per caso telefonato a Giorgio? Molto bene, perché non è pronto Giorgio, cioè, i rapporti tra le persone, però in realtà la produzione la fanno gli altri ed è una produzione quasi interamente non programmabile. Noi stiamo facendo una produzione di questo tipo che per sua natura è strana. Strano significa che non ci sono molte regole precedenti, ci sono regole solo per analogia, no? In realtà noi non stiamo affatto facendo un giornale, diciamo che facciamo un giornale per non fare spaventare i nostri amici, cioè per dire stiamo facendo una cosa, però noi non sappiamo assolutamente che cavolo stiamo facendo, non so se rendo l'idea, no? E così cominciamo ad approssimarci, che noi stessi non abbiamo idea di quello a cui stiamo lavorando, abbiamo idea delle direzioni, delle regioni, del progetto, di cui fanno parte tante persone. Ecco, è un momento storico molto importante. Una volta hanno inventato l'alfabeto, un'altra volta hanno inventato la stampa e quest'altra volta hanno inventato l'internet. Sono passati appena 20 anni, c'è un soffio nella vita umana. E l'ultima domanda, scegli una canzone che verrà mandata subito dopo la tua intervista. Io vorrei Michelle, che era la canzone con cui ballavamo n anni fa, diciamo prima del 68, no? Con una ragazzina francese con cui ci dovevamo vedere il giorno dopo, però purtroppo i suoi genitori ripartirono per la Francia e quindi Michelle rimane solo una canzone. Ecco, mi piacerebbe che qualcuno ci mettesse questi. Bentornati a Lucciole nelle Tenebre, io sono Eleonora e sono in compagnia di Salvo Nibene, direttore di 10 e 25, detto anche il principe di Menfi. Naturalmente stiamo scherzando, e spiegaci un po' come funziona 10 e 25, come è nata l'idea. Ciao Eleonora e ciao a tutti gli ascoltatori. 10 e 25 è nato esattamente un anno fa, il 7 dicembre del 2011, e per noi è una data felice. Perché insomma quel giorno è stato segnato dall'arresto di Michele Zagaria, ex primo La Rossa dei Casalesi, che comandava la rete degli affari relativi al cemento in Emilia Romagna. Quindi non a caso insomma un personaggio che si lega nel nostro percorso. Un percorso fatto di antimafia e giornalismo. Sì, infatti 10 e 25 a Bologna rappresenta... A Bologna è i siciliani giovani, che è quel progetto che da un anno a questa parte è stato rimesso in circolazione. Abbiamo provato a dare vita al vecchio progetto dei siciliani, il quale direttore era Pippo Fava, e adesso insieme a tante altre testate locali stiamo cercando di rimettere in rete e soprattutto di riportare in edicola. Perché il nome 10 e 25? 10 e 25 è, come sapranno tutti i bolognesi, insomma, che ricorderanno questo tragico orario, è appunto l'ora della strage di Bologna, la strage del 2 agosto 1980. E 10 e 25 è un giornale formato per lo più da universitari e comunque da persone che vivono a Bologna. E spesso ci chiedevamo il perché di quelle lancette ferme e del come mai non siano state mai rimesse in moto. E noi stiamo provando un po' a farlo senza presunzione e con tanto impegno. E perché è importante parlare di antimafia proprio a Bologna? È importante perché ormai le mafie non sono rimaste più dagli anni 50 a questa parte nei confini delle regioni del sud, ma si sono spostate. E noi proprio da questo, e soprattutto da un giornalista bolognese che nel 1962 fece entrare questa parola all'interno delle case degli italiani attraverso la televisione, proprio da lì prendiamo esempio e insieme appunto a Pippo Fava stiamo cercando di portare avanti questo messaggio. Il giornalista era un bolognese ed era Enzo Biagi. E quindi il vostro intento è portare l'interesse da parte della comunità, da parte delle persone in Emilia Romagna, Bologna, così, in questi vostri temi? Sì, cercando appunto di fare attenzione sul tema, abbiamo preso nota che per fortuna da pochissimi anni a questa parte il messaggio insomma è stato recepito anche dalle istituzioni e nel dibattito politico se ne parla. E state organizzando anche altre iniziative in merito? Siamo reduci da una 4 giorni intensa appunto che abbiamo fatto nel fine mese di novembre, dove abbiamo parlato di giornalismo, di antimafia e anche della strage di Bologna. Bene, ringraziamo Salvo Nibene per essere stato con noi. Grazie Salvo. E ricordiamo che il 1025 può essere reperibile in internet su www.1025.it E naturalmente hai una canzone da proporci in conclusione? Io prima ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio i ragazzi del presidio, soprattutto Eleonora che nonostante il tempo passato è sempre alta, un metro, una big bubble. Però la big bubble si può allungare, l'abbiamo sempre detto. Speriamo. La canzone è Revolution di Nina Simone. E vi lasciamo così, arrivederci alla prossima edizione di Lucciole nelle Tenebre. Maybe we'll do both, I don't know. Because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end. Stand in fact is when they get that foot off.